Letture di Radio 24. Lo scorso mercoledì 25 maggio è stato licenziato alla Camera dei Deputati con voto di fiducia il decreto Omnibus che prevede la moratoria di un anno sul piano nucleare. Il quesito referendario sul nucleare è quindi annullato? Non proprio. Il decreto legge dovrà essere firmato prima dal capo dello Stato, ma l'ultima parola spetta alla Cassazione. Il referendum sul nucleare si terrà comunque? Cioè, nonostante l'approvazione definitiva di norme ad hoc nel decreto legge Omnibus? Potrebbe anche essere, ma la partita è aperta. Quando la nuova legge verrà firmata dal capo dello Stato e quindi promulgata, a queste domande dovrà rispondere l'Ufficio Centrale per il Referendum della Cassazione. Da più di 30 anni, infatti, dopo la sentenza della consulta numero 68 del 1978, solo un'abrogazione tout court della norma su cui si chiede il referendum può arrestare la consultazione popolare. Ma nel caso in cui all'abrogazione si accompagni anche la promulgazione di una nuova disciplina, il referendum si potrebbe svolgere proprio sulle nuove norme approvate. L'organo incaricato di valutare se l'intervento legislativo soddisfa o no il quesito referendario è appunto la Cassazione, per la quale stanno preparando i ricorsi gli avvocati del Comitato per il Sì, a cominciare da Alessandro Pace e Gianluigi Pellegrino. La situazione dal punto di vista giuridico è questa. L'articolo 5 della nuova legge, nei commi dal 2 al 7, abroga tutte le norme che oggi regolano l'insediamento di centrali nucleari, con una precisa disposizione dei contenuti del quesito referendario, in tal modo accogliendo le richieste dei promotori. Però il comma 1, pur affermando di non procedere con l'attuazione di un piano energetico comprensivo di centrali nucleari, aggiunge che ciò avviene in attesa di una fase di approfondimento in tema di sicurezza nucleare. Quindi la scelta del nucleare non viene esclusa totalmente, ma solo sospesa. È la cosiddetta moratoria, contro cui i referendari hanno anche sollevato un conflitto di attribuzione che verrà discusso il 7 giugno. Ma c'è un secondo problema. I promotori del referendum intendono sottoporre al giudizio della Cassazione anche il comma 8. Secondo questa norma fortemente innovativa, l'approvazione del piano di strategia energetica nazionale diventa un atto amministrativo del Premier. Non c'è più alcuna legge da promulgare in materia, le Camere sono solamente sentite, che non esclude nel medesimo piano eventuali centrali nucleari. Con la sentenza 28 del 2011, la Consulta invece ha dichiarato ammissibile il referendum, in quanto il quesito mira a realizzare un effetto di ablazione puro e semplice della disciplina concernente la realizzazione e gestione di nuove centrali nucleari. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Ma sull'atomo la scelta finale è della Cassazione» di Maria Antonietta Calabrò, dal Corriere della Sera, di mercoledì 25 maggio. Letture di Radio 24. La scelta della scuola superiore è tappa cruciale nella vita di un figlio. I cambiamenti nei giovani sono spesso repentini e il rischio di sbagliare strada è sempre dietro l'angolo. Ma la scelta della scuola superiore deve mettere da parte prima di tutto i pregiudizi della famiglia. Una famiglia che deve iscrivere un figlio alle superiori ha due problemi. Primo problema: scegliere la tipologia della futura scuola fra liceo, istituto tecnico o istituto professionale. Secondo problema: quale indirizzo preferire? I professori delle medie, alla conclusione del ciclo, danno un consiglio, più che un'indicazione precisa. Segnalano se per un adolescente sia meglio puntare a un diploma professionale per cercare di entrare al più presto nel mondo del lavoro o invece affrontare più in là gli studi universitari. Segnalano la maggiore o minore apertura degli studenti per gli studi umanistici o scientifici. La scelta dipenderà dunque di fatto, nella maggior parte dei casi, dalle possibilità economiche o dalle tradizioni culturali della famiglia. In questa fase la scuola ha poche responsabilità. Nessuno può in realtà sapere quali siano interessi e vocazioni autentiche di un giovanissimo, e tantomeno i possibili sviluppi della sua mente. Sta di fatto che, secondo uno studio di Alma Laurea, il 42% degli studenti, una volta ottenuta la maturità, pensano d'aver sbagliato strada. Per non parlare poi della piaga degli abbandoni. Secondo il rapporto Istat, nel 2010 un giovane su 5 ha lasciato gli studi per andare a ingrossare le schiere dei precari. Non credo che la scuola possa aiutare i giovani a fare una scelta giusta, neanche con i test e con i colloqui d'accesso organizzati dalle superiori. Per ognuno ci possono essere nel giro di un anno cambiamenti mentali radicali. Pesa dunque molto di più la scelta dei genitori, i quali paiono orientarsi sempre più verso i licei, più 3%, o più moderatamente gli istituti tecnici, più 0,4%, mentre snobbano vistosamente gli istituti professionali, meno 3,4%, che più degli altri dovrebbero, almeno sulla carta, dare opportunità concrete di lavoro, se fossero seguiti i corsi più legati alle esigenze del territorio. Prevalgono pregiudizi ben radicati nelle famiglie, preoccupate in prevalenza che i figli mantengano uno stato sociale o tendano a migliorarlo, più che badare ai contenuti di un percorso educativo appropriato. Avete ascoltato la lettura dell'articolo La scelta della scuola per i figli e i pregiudizi radicati in famiglia di Giorgio De Rienzo dal Corriere della Sera di mercoledì 25 maggio. Transistor, microchip e componenti direttamente dal 1976. E il cuore del primo computer Apple realizzato torna a battere al Politecnico di Torino, tra cavi, circuiti e vecchi monitor in bianco e nero. Sul palco un'attrice declama numeri e simboli, lettere. Appena più in là un computer li decifra. Pochi secondi e sul video compare una scritta. Hello Polito. Polito è il Politecnico di Torino. Il computer è un Apple 1, primo calcolatore del marchio della mela, lanciato nel 1976 e prodotto in soli 200 esemplari. Quello dell'imprenditore torinese Marco Boglione, il numero 82, ieri è tornato in vita dopo un restauro lungo e complesso, quasi fosse stato un affresco vecchio di secoli. Non basta sostituire i componenti danneggiati, hanno spiegato gli esperti del Politecnico. Servono transistor e microchip, costruiti proprio in quell'anno, altrimenti si rischia di creare un falso storico. Circondato da cavi e circuiti, il vecchio computer ha tentennato un po', ma poi è ripartito, mostrando due parole su un monitor bianco e nero d'epoca. Dal pubblico sono partiti applausi scroscianti. Altro che video a tre dimensioni, full HD e suono surround. A vederlo, anzi, l'Apple 1 non sembra nemmeno un computer. È una scheda verde scuro, grande all'incirca come un portatile, senza tastiera né monitor e nemmeno alimentatore. Il suo primo segno di vita non è un suono. Non c'è la mela morsicata che compare nei suoi lontani pronipoti odierni, ma appena una chiocciolina, anche se allora il web esisteva solo nei libri di fantascienza. Boglione, patron di Basic.net, ha acquistato l'Apple 1 lo scorso novembre a un'asta di Christie's per 157.000 euro, insieme con la confezione originale e una lettera autografa di Steve Jobs. Va ad aggiungersi a una collezione che conta oltre 200 pezzi tra software e hardware. La storia di Apple, riflette, mostra che non solo è possibile unire follia e imprenditoria, ma è proprio così che si deve fare. Pigia un bottone rosso e racconta: questo computer ha dato il via a una rivoluzione, rendendo l'informatica alla portata di tutti. Grazie a Wozniak e Jobs, fondatori di Apple, ma anche a Bill Gates, oggi il mondo è più libero. E se la rivoluzione egiziana ha potuto affermarsi, lo dobbiamo a chi ha inventato il PC e Internet, prima ancora che a Facebook. Come puntualizza il rettore Profumo, anche il Politecnico di Torino ha giocato un ruolo importante nella rivoluzione informatica, istituendo cattedre specialistiche e registrando corsi per la TV col Consorzio Nettuno e acquistando computer enormi e costosissimi. Ieri erano esposti nell'Aula Magna, nostalgici souvenir di un tempo che fu. Oggi un cellulare da pochi euro è decine di volte più potente. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il cuore del primo Apple batte di nuovo di Bruno Ruffilli dalla Stampa di mercoledì 11 maggio.